siamo molto contenti di come siamo arrivati appunto alla composizione di queste liste, nel senso che è stato un processo intanto collettivo che ha durato questi mesi di confronto, in cui abbiamo incontrato tante persone, e siamo molto contenti perché crediamo che insomma le nostre liste sia in quartiere che al Consiglio Comunale rappresentino qual è l'anima e il senso e le ragioni per cui il Potere al Popolo si candida, nel senso che ci sono rappresentati tutti quelli che sono stati dimenticati, esclusi dalla politica negli ultimi anni. Abbiamo una lista fatta di precari, di giovani e donne, di pezzi importanti della lotta di questa città, e anche tanti indipendenti che hanno deciso di intraprendere questo percorso con noi. Quindi insomma sono rappresentate sia pezzi di lavoratori e lavoratrici di questa città che vengono esclusi, sia soprattutto anche le lotte insomma, sia sociali che ambientali di questa città. A proposito di lotte, qualche giorno fa avete commentato anche la messa in vendita dello stabile delle Poste in via Gucchi. Il tema è quello abitativo. Assolutamente, è un tema centrale per il paese e per la città di Bologna, nel senso che tra l'altro la vicenda appunto delle Poste credo che sia emblematica della gestione del sistema Partito Democratico di questa città, nel senso la svendita del patrimonio pubblico di fronte appunto, tra l'altro, un stabile di proprietà delle Poste, quindi anche questo è significativo, essendo un ente che poi è stato privatizzato di fatto, messo appunto abbandonato da 20 anni. Le amministrazioni hanno detto tante parole in questi anni, ma nulla è stato fatto. Invece noi pensiamo che una cosa ci sia solamente da fare, cioè requisire tutto lo sfitto sia pubblico che privato per darlo in mano di fatto a chi la città la vive, quindi sia per soluzioni abitative realmente di case popolari e non i social housing di cui ci si riempie tanto la bocca da queste parti, e luoghi di aggregazione sia insomma sia sociali che culturali che sportivi, come ad esempio potrebbero essere le ex caserme di cui insomma abbiamo già parlato insomma negli scorsi mesi, che però stanno venendo svendute di fatto. A proposito di chi la città da vive, domani avrete una conferenza stampa in cui risponderete anche al comitato dei residenti, che ieri hanno fatto un appello a tutti i candidati e le candidate sindaco, evocando sempre il tema della sicurezza e del degrado. Il punto è che insomma voi non condividete questa impostazione. Ma noi diciamo che pensiamo appunto che la città debba essere di tutti e di tutte, e che però insomma crediamo che i giovani in questo senso vengano troppo spesso insomma colpevolizzati, mentre invece sono un elemento di vitalità e di energia per questa città, e crediamo che appunto contro la retorica del degrado si debba parlare invece di inclusione, di una socialità vera, di diritti, mentre invece oltre alla questione che viene sollevata è dei residenti, la zona universitaria è anche vittima di tutta una fascia di una generazione che viene sfruttata nei tanti lavori e lavoretti della zona, e di cui però insomma invece non si parla mai, ecco, si parla solamente di giovani per quanto riguarda la movida o il degrado, mentre invece non si dice mai quanto vengono risucchiati e sfruttati anche insomma in questa città. Qual è il vostro obiettivo per le comunali? Come altre volte pensiamo, quello che ci interessa è costruire un'idea di città diversa. Infatti abbiamo il nostro slogan è Bologna città pubblica, che oggi dopo un anno e mezzo di pandemia assume un significato credo insomma importantissimo. Abbiamo visto insomma cosa ha prodotto 30 anni di privatizzazione dei servizi, quindi noi ci interessa mettere al centro un'idea di rottura completamente con quella che è l'asse del Partito Democratico, che tanto ormai abbiamo visto già stanno facendo gli accordi tra destra e sinistra come se i risultati fossero già decisi. Quindi a noi ci interessa appunto dare una visione completamente alternativa e di rottura con quello che ha significato l'amministrazione degli ultimi decenni in realtà in questa città, al di là di quello che sarà poi il risultato effettivo elettorale. Abbiamo sempre detto, c'eravamo prima, ci siamo e ci saremo dopo le elezioni, anzi con ancora più convinzione, al di là del risultato insomma.